1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18, cari ascoltatori, in questa trasmissione di oggi che va avanti, lo ricordo, fino alle 9:45. Ovviamente su tutto ci sono i risultati delle elezioni europee, di cui parliamo anche nella rassegna stampa, di cui ovviamente parlano soprattutto i giornali. Tra l'altro mi affianca, starà con noi fino alle 9:45 per l'appunto, Gigi Donelli. Buongiorno Gigi, eccoci. Buongiorno qua. Alessandro. Ci darai uno sguardo anche su quello, visto che sono le elezioni europee, ce lo siamo dimenticati abbastanza, no? Ci darai uno sguardo su quello che è successo in Europa, non solo in Italia o no? Intanto mi sembra di poter dire che hanno stravinto qua e là, ovviamente poi ci sono distinzioni, e gli euroscettici un po', per esempio in Gran Bretagna, ma anche in Francia. Insomma, un buon trionfo di quello che si temeva per qualcuno o si profilava per qualcun altro, la vittoria degli euroscettici, no? Sì, sicuramente questa è una delle note di giornata, con effettivamente la Francia soprattutto. Infatti stavo guardando adesso le testate francesi, la parola più diffusa è sisma, quindi il terremoto francese. I francesi stanno riprendendo questa mattina da una botta che ha delle caratteristiche anche abbastanza eccezionali. Segnalo solamente che non solo c'è appunto il dato complessivo che sappiamo, ma emerge questa straordinaria vittoria della destra francese nel nord, nel Bas-Pas-de-Calais, che è la zona storicamente rossa francese. Insomma, davvero un sisma e di impatto enorme. E poi tante storie che naturalmente ci portano attraverso un'Europa che ovviamente è a 28, quindi molte storie questa mattina dai quotidiani. So che per esempio in Gran Bretagna ha parlato Nigel Farage, il leader di questo partito anti-europeista, che è il primo partito. Assolutamente, è anche vero che trovo che il caso Farage, che era piuttosto diciamo telefonato dall'andamento, non dimentichiamo che i leader britannici hanno fatto a gara chi prendeva più distanza dal progetto europeo, che lo stesso primo ministro ha fatto la sua campagna elettorale parlando del referendum per andarsene dall'Europa e usandola un po' come moneta di scambio. Quindi da un certo punto di vista forse questo è l'aspetto più prevedibile e meno sorprendente. Sicuramente l'impatto, dicevo, di questa portata antieuropeista sulla Francia, prevedibile, visto che le comunali già al Front National aveva avuto un risultato formidabile, ma sicuramente non così forte. Allora, intanto, visto che questo è lo spazio tradizionale della rassegna stampa, andiamo sicuramente a leggere quello che ci propongono i giornali della lettura del voto. Vi ricordo che avremo ospiti dalle 8:15 Giorgio Mulè, direttore di Panorama, Mario Adinolfi. Avremo ospite alle 8:30, si aggiungerà Daniele Martinelli, che è un giornalista e blogger del Movimento 5 Stelle, perché ovviamente ricordiamo i dati per chi magari si è svegliato tardi. Io li chiamo debosciati, caro Gigi. Debosciati, dove siete? Non sapete ancora i risultati, ve li dico. Vabbè, i risultati sono questi, che il Partito Democratico si attesta attorno al 41%, quindi un risultato incredibile, oltre ogni previsione, oltre ogni sondaggio. Il Movimento 5 Stelle è attorno al 21%, dunque doppiato da Renzi, Beppe Grillo. Forza Italia è al 16,7%, e poi chi supera il quorum del 4% sono la Lega al 6,26, il nuovo centrodestra di Alfano al 4,36 e probabilmente anche l'altra Europa con Tsipras viaggia al 4,03, dunque naviga proprio in linea di galleggiamento. Ma intanto vediamo allora i titoli. Io ti propongo, Gigi, e anche agli ascoltatori, quelli dei giornali italiani. Il Sole apre così: stravince il PD di Renzi, shock francese in Europa. Vedi che mettono subito la Francia con Le Pen in primo piano. Per il Corriere della Sera: vince Renzi, PD mai così forte, battuto Grillo. Per Repubblica: il trionfo di Renzi, flop di Grillo, terremoto Le Pen in Francia. Per il Giornale: Grillo asfaltato, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano: Renzi doppia Grillo, PD record oltre il 40%. Il Messaggero: primi dati, Renzi stacca Grillo. La Stampa: Renzi vola e doppia Grillo. il secolo XIX Valanga, Renzi, vittoria storica, mentre l'unità vittoria straordinaria, questo è il titolo di prima pagina. Gigi, prima di iniziare dalle magari altre notizie che ho trovato sui giornali, perché non è solo europee, c'è qualche titolo invece, qualcosa ci hai già detto dalla Francia? Penso valga la pena segnalare quello di Le Figaro, che come dire, come definirlo se non perfido, nel senso che il titolo è: Presidente Hollande, siete stato il miglior reclutatore per il fronte nazionale, quindi questa è la linea. Mentre i giornali, gli altri, la maggior parte delle testate francesi questa mattina si limitano, come ti dicevo, alla parola sisma, terremoto, ecco, per Le Figaro c'è proprio l'atto d'accusa esplicito, quindi un giornale naturalmente tradizionalmente di centrodestra che dice: Presidente, avete fatto il gran lavoro per il fronte nazionale, l'avete fatto voi con i fallimenti, in particolare sulle politiche dell'occupazione. Allora, io vorrei iniziare però da altre notizie. Spesso ci dimentichiamo che per esempio in Ucraina c'è una situazione molto molto delicata. Purtroppo a ricordarci c'è anche questa notizia che proviene da quei territori, con l'uccisione di un fotoreporter italiano, 30 anni, Andy Rocchelli, che da Pianella Valtidone in provincia di Piacenza, dove aveva fondato insieme ad altri amici un laboratorio fotografico, Cesura lo avevano chiamato, era andato in Ucraina come andava spesso in zone di teatri di guerra, e purtroppo insieme al suo accompagnatore Mironov, giornalista russo, tra l'altro di quel giornale di Anna Politkovskaya, a Novaya Gazeta, è stato ucciso, probabilmente dalle ricostruzioni, da colpi di mortaio sparati dalle forze ucraine. Questa almeno è la ricostruzione più accreditata sui giornali. Oggi sui giornali raccontano, per esempio, il Corriere della Sera, Cesare Giuzzi: Andrea, il giovane fotoreporter ucciso, la sua vita tra foto, bossoli e storie. Lavorava per la storia, così lo ricordano i suoi amici, e la storia non ha prezzo. Le sue foto in Italia non le comprava nessuno. I foto editor dicevano che c'era troppa violenza, troppa verità, perché sono foto dure, visto che la guerra è dura. Così Luca Santese e Gabriele Michalizzi, due soci e amici di Andy, raccontano, e guardando gli occhi di chi ascolta, scrutano lo sguardo come se fossero dietro l'obiettivo, come se volessero fissare l'inquadratura di questi attimi. C'è anche, Gigi, sulla Stampa, il racconto di William Roglon, che è un giornalista fotografo che era assieme a loro due, e incredibilmente lui dice lui stesso, si è salvato. È intervistato sulla Stampa pagina 12, dice: penso che a spararci siano stati i soldati ucraini, eravamo lì, siamo usciti dalla macchina, ci siamo messi in un canale, sono iniziati i colpi di mortaio, almeno 40-60, ci siamo riparati in un fosso, poi chi sparava ha aggiustato il tiro, un colpo di obice è cascato proprio in mezzo al fosso. Loro due sfortunati sono stati colpiti dalle schegge, io ho urlato: siamo giornalisti, agitando la mia macchina fotografica, sono scappato. Insomma, ce l'ha fatta lui miracolosamente. Ecco, il racconto tra l'altro di Roglon, che è riportato sul sito di Rassia dell'informazione russa in lingua inglese, c'è la testimonianza di questo giornalista francese che la racconta. A proposito, giustamente dici, il mondo non solo elezioni stamattina, e per rimanere sull'Ucraina, sempre sulle testate francesi, Le Monde riporta il successo di Poroshenko, che viene definito l'oligarca che è rassicurante per in questi tempi di caos. Alle presidenziali, ma è vero che è il re del cioccolato? Il re del cioccolato, assolutamente sì, grande e non solo, in realtà il cioccolato sta bene per i titoli, ma di grande attività di produzione agroalimentare. Comunque, insomma, purtroppo c'è questa notizia che ci ha fatto ripiombare l'Ucraina sulle prime pagine dei giornali. Spesso si dimenticano, e soprattutto si dimenticano questi fotografi, fotoreporter che fanno questo lavoro magari arrabattandosi, cercando di vendere qualche servizio, e purtroppo poi diventano famosi nel momento in cui, come in questo caso, succede una tragedia. Ma la storia di Andy Rocchelli la trovate su tutti i giornali. Un'altra tragedia che c'è stata, è passata un po' sotto silenzio per la questione delle elezioni, ha colpito proprio nel cuore dell'Europa, Bruxelles, dove le autorità non riescono a capire, anche se c'è un fotogramma, un video vero e proprio di colui che ha sparato al di fuori del museo ebraico a Bruxelles. Sono 4 le persone morte, perché un'altra ferita gravemente è morta per le ferite riportate. Racconta spunta il Corriere della Sera. Bruxelles caccia l'uomo, spunta un video, le immagini di un attentatore impressionante, vederlo col Kalashnikov, quello che sembra un Kalashnikov, sparare appena fuori dal museo ebraico. Sono morte due persone, marito e moglie, da Tel Aviv, si chiamavano Riva ed erano turisti, racconta il Corriere. Poi loro e un'altra persona di nazionalità francese, e anche Alexander Strens, cittadino belga impiegato 25 anni nel museo ebraico. Sono morti così, senza sapere perché, per questa, tra l'altro, appunto questa folle. Mattina le autorità belga, attraverso lo Soir in particolare, quindi quotidiano della capitale belga, rinnovano l'invito alle autorità. Tutto questo, tutto quanto appunto hai descritto, è accaduto nel cuore di Bruxelles. I Sablons sono proprio il salotto buono, insomma, il luogo dove turisti e belgi vanno nel fine settimana. Il museo ebraico, secondo, terzo, quarto piano di una vecchia palazzina del centro. Devo dire che l'ho visitato non più di 7-8 mesi fa, non c'era nessun tipo di controllo particolare, un museo molto tranquillo che raccontava la storia della comunità ebraica appunto a Bruxelles. Ovviamente non c'è al momento alcuna rivendicazione, però chiaramente si pensa al terrorismo di matrice islamica. Questa almeno è una delle piste che vengono più seguite. L'unica cosa certa, come scrive il Corriere della Sera, è che hanno agito assassini antisemiti per colpire proprio gli ebrei. Questa è l'unica certezza che hanno le autorità del Belgio, però al momento davvero non ci sono rivendicazioni, c'è solo questo video, peraltro molto sfumato, con l'appello a cercare di riconoscere questa persona da parte delle autorità di Bruxelles. Va bene, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità, riprendiamo e riprenderemo ovviamente dalle notizie dei giornali, che sono tutte concentrate sulle elezioni. Ovviamente i dati sui giornali non sono precisi, perché i giornali sono andati in stampa questa notte, ma ve li daremo voi state qui perché vedremo anche come hanno reagito e quali sono le prime reazioni dopo il trionfo del Partito Democratico e certamente la battuta d'arresto, almeno doppiato, Beppe Grillo. 24 mattino. Siamo qui allora a continuare la lettura dei giornali, oggi molto particolare, dedicata alle elezioni. Con noi c'è Gigi Donelli e starà con noi fino alle 9.45. Se volete poi apriremo anche i microfoni, ovviamente dalle 8:15, cari ascoltatori. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire. Come detto, di che risultati parliamo? Delle europee. In Italia hanno visto il Partito Democratico, le sezioni scrutinate non sono ancora tutte, ma ne mancano davvero pochissime. Attualmente al 40,85%, il Movimento 5 Stelle al 21,14%, quindi doppiato Beppe Grillo dal partito di Matteo Renzi, Forza Italia al 16,79%, la Lega al 6,18%, il Nuovo Centrodestra al 4,37%, dunque supera il quorum del 4%, così come, anche se di poco e a meno di ultimi clamorosi sorprese negli ultimi scrutini, l'altra Europa con Tsipras al 4,03%, lo sbarramento era al 4%. Fratelli d'Italia invece è la prima forza che rimane sotto, 3,65%, dunque non porta europarlamentare a Bruxelles. Dicevamo, l'Italia, come i giornali dipingono quello che è il trionfo del Partito Democratico. Per il Sole 24 Ore, l'esultanza di Renzi, ora cambiamo tutto, questo è il titolo a pagina 5, e c'è soprattutto già un retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 4 del Corriere della Sera, che titola così: Renzi incassa la vittoria, ora parte la vera rottamazione. Dice Renzi: ora non parlo più di rottamazione, la pratico, non riguarda però le persone ma riguarda le lungaggini, le cose che non vanno in Italia e sono tante. Così ha detto alla cerchia ristretta di fedelissimi ieri, quando è arrivata alla sede del Nazareno. Ha detto Renzi, aggiunto: a prescindere dal risultato bisognerà fare qualcosa, perché sia chiaro a tutti, agli amici ma soprattutto agli avversari, agli interni e agli alleati, io non mi rassegno, continuo a voler mutare l'Italia, perciò le riforme si faranno anche se ho dovuto rallentare i tempi. La strada tracciata è stata premiata, dopo questo voto non credo proprio sia possibile per me essere frenato dalla burocrazia, da Berlusconi, da chi nel mio partito inneggia la conservazione. Insomma, un Renzi che pare già nel primo commento voglia qualche modo procedere con quel suo incedere da carro armato, racconta Maria Teresa Meli sul Corriere. Dall'altra parte ovviamente c'è il grande sconfitto, Beppe Grillo, ovviamente sconfitto è sempre al 21,14%, cioè un elettore su 5 di quelli che hanno votato Movimento 5 Stelle, ma certo dicevano vinciamo noi, dicevano siamo lì lì a superare il PD, appena lo superiamo il governo deve essere cambiato, andremo da Napolitano come dire ad assediare in maniera pacifica il Quirinale per dirgli si dimetta e poi nuove elezioni. Ora Grillo tra shock e rabbia, titolo di pagina 4 di Repubblica, gli italiani si pentiranno, questo è il virgolettato che viene attribuito a Beppe Grillo, perché dichiarazioni ufficiali non ce ne sono. Tommaso Ciriaco racconta, ora pensa di lasciare la guida del movimento, se non vinco mi ritiro, continuava a dire il fondatore, lo aveva giurato, ora pare che si sia rinchiuso ieri a Milano con Gianroberto Casaleggio ad assistere alla lunga nottata elettorale, e un commento che viene a lui attribuito da Repubblica è «Sono depresso», confida i suoi. Accanto al fondatore della Casaleggio Associati c'è Grillo, accorso a Milano in fretta e furia nella notte, molto deluso, questa frase «Gli italiani si pentiranno». Per la stampa è missione incompiuta, il gelo di Grillo dopo l'euforia in piazza, ci sono anche gli sfoghi di alcuni parlamentari, ovviamente al momento ci sono frasi come dire estrapolate qui da Twitter, per esempio, invece di far fuori i politici dobbiamo far fuori chi li vota, questo è un tweet del Movimento 5 Stelle Roma, un rabbioso tweet, capito Gigi? Insomma, beh, la rabbia non è mai mancata in queste vabbè, settimane, vabbè, certamente no, questo vabbè sono anche sfoghi, sì, certo, sfoghi nel momento del in cui dopo. Del giorno dopo chiaramente però ora tutti ad attendere a capire cosa farà Beppe Grillo, mentre nel primo giro poi vediamo cosa succede in Europa, è il primo giro di opinioni, c'è anche quella di Silvio Berlusconi. Berlusconi con Forza Italia al momento al 16,79%, certo dopo la scissione con il nuovo centrodestra di Alfano, scrive Repubblica che prova a dettare la linea della resistenza. Berlusconi che dice io comunque ho fatto il massimo, ci ho messo la mia faccia in prima persona. Certo anche qui pare si acceleri una sorta di rivoluzione. Repubblica lo mette a pagina 6, io ho messo fuori gioco Marina, tieniti pronta, perché si è detto spesso Berlusconi se non ottiene il 20% potrebbe cedere la mano a Marina Berlusconi. C'è anche un'intervista a Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi, a pagina 6 del Messaggero, dice Berlusconi sta bene, circondato dagli affetti, i nipoti e io egoisticamente, personalmente spero ci sarà ora un po' più di tempo per noi due per stare insieme. Su Beppe Grillo il giudizio di Francesca Pascale è tranchant, dice è un buffone, prima lo trovavo anche divertente, ora mi fa paura. Su Alfano invece rappresenta per me un grande dolore, così dice Francesca Pascale, che poi, visto che tutti dicono ma come, non è che adesso si riparte con la storia delle larghe intese, guardi, lo confesso, io non credo alle larghe intese, siamo troppo diversi da Renzi. Questo giudizio politico, chissà quanto conterà all'interno di Forza Italia di Francesca Pascale. Vabbè, qualcosa vedremo tra poco ancora, no? Di riflessi italiani. Prima però vorrei ancora tornare sulla questione europea. Allarghiamo un attimo gli orizzonti. Questo succede in Italia e poi dalle 8:15 approfondiremo con i nostri ospiti e analisti. In Europa invece abbiamo detto la Francia certamente è giusto dire il termine scioccata, no, insomma un pochino sì, un pochino no. Beh, insomma ci sono alcuni aspetti che sono non è la prima obiettivamente volta che, no, che Marine Le Pen, il Front Nazionale è una realtà ben presente, addirittura la seconda generazione, no? I partiti familiari. Certo, la vittoria alle comunali molto recente aveva dato un'indicazione molto chiara. Il sud della Francia è sempre stata una roccaforte del Front National, della destra. Ecco, forse oggi quello che lascia davvero scioccati in termini politici ovviamente è quello che è accaduto dalla parte opposta, la zona di Lille, la zona operaia, la tradizione del Tessè. Per carità, anche come tu sai bene, anche Sesto San Giovanni e aree operaie tradizionali italiane hanno cambiato pelle più di una volta. Quello che però leggiamo oggi è un numero preciso, il più alto numero percentuale del Front National è nella zona di Lille, quindi 33%, a fronte del quale il partito socialista del presidente in carica esce con le ossa rotte e con un 12,5% in quella parte della Francia. Davvero, da questo punto di vista, forse va oltre ogni aspettativa. Allora, io ti leggo qualche articolo, qualche titolo di giornale italiano sulla Francia. Il Corriere della Sera titola così: il fronte di Le Pen, primo partito in Francia, crollo storico per i socialisti di Hollande. Tra l'altro, Marine Le Pen ha già fatto una prima richiesta molto brutale a Hollande: sciogliere il Parlamento. Questo ha chiesto la leader dell'ultradestra. Oggi ci sarà una riunione all'Eliseo per cercare di capire appunto come analizzare questo voto. Ha vinto le comunali, ha stravinto le europee, è ovvio che chiede questo. Tra l'altro, invece, anche Repubblica ha più o meno la stessa reazione. Marine Le Pen trionfa, il fronte è il primo partito, sciogliamo l'assemblea. Si parla su Repubblica di terremoto politico col Front National che vola al 25,4%, mentre i socialisti sono al 13,9%, sono proprio doppiati, quindi evidentemente il segnale politico è chiaro. Il premier dia le dimissioni, questo è ciò che ha chiesto Marine Le Pen. Invece, andando alla Gran Bretagna, ecco, il Sole 24 Ore con Leonardo Maisano titola così: UKIP alla conquista di Londra. Forse di questo Nigel Farage c'è scritto tanto, ma gli italiani conoscono poco. Chi è, cos'è il suo partito, che è il primo partito della Gran Bretagna? Ecco, allora, è il primo partito della Gran Bretagna, è la prima volta nella storia del Regno Unito post-bellico che non sentiamo il solito testa a testa laburisti. Esatto. Quindi, cioè, ricordiamo, è un fatto storico. Farage è arrivato attorno al 29,2, mentre i conservatori al 24,2 e i laburisti al 23,6. Cioè il primo partito, no? Assolutamente. Farage è anche un percorso che si concentra in 20 anni, dal 92, il momento in cui lascia lui il partito conservatore assumendo la posizione, diciamo, di vice di UKIP, poi diventa the man in charge, quindi l'uomo al comando, solo nel 2010, e la sua crescita è impressionante. Quindi il Guardian, mi sembra opportuno citarlo, il titolo è UKIP wins European with ease, quindi con facilità, a mani basse di fatto vince questo confronto con il 28% appunto dei voti, e racconta in alcune brevi parole il fatto che 20 anni fa la prima partecipazione elettorale aveva l'1% il partito, e poi progressivamente è salito il 10% alle ultime elezioni europee, e oggi ovviamente la vittoria. Sua caratteristica è essere più che euroscettico, proprio separatista, diciamo, vuole una Gran Bretagna fuori dall'Europa, in un paese in cui l'euroscetticismo è il minimo richiesto a un politico negli ultimi 5 anni. Non dimentichiamo quello che hanno fatto appunto gli sconfitti, che sono stati euroscettici in tutta la campagna elettorale. Certo, nel Regno Unito questo aspetto assume un carattere diverso, e forse questo vale la pena sottolinearlo. Mentre in molti paesi dell'Europa centrale, in particolare euroscetticismo e estrema destra si associano, nel mondo anglosassone segue un percorso autonomo. Non è così. Però prima del traffico, visto che hai parlato di estrema destra, mi ha colpito questa notizia che ho trovato sul Giornale a pagina 11 di Noam Benjamin, che ne scrive: rotto il tabù a Berlino. Pensate, a Berlino, in Germania, dove non c'è il quorum del 4%, non c'è lo sbarramento, e quindi anche chi ha ottenuto l'1% riesce magari a conquistare un seggio, è stato eletto un neonazista, così almeno viene definito nel titolo dal giornale. Si tratta di Udo Voigt, 62 anni, leader di un partito di estrema destra, NPD. Questo è solo forse la situazione più emblematica e più estrema, un neonazista in Germania eletto nel Parlamento, di un'avanzata però della destra che in vari paesi, se non sbaglio, c'è Alba Dorata, si afferma in Grecia credo al 9%, e poi ci sono altri paesi. C'è sicuramente Jobbik, che ha dei numeri impressionanti in Ungheria, e davvero lì siamo in un esplicito richiamo al neonazismo. Siamo naturalmente, poi ci sono gli austriaci con FPÖ. Effettivamente c'è un arcipelago in grande crescita. Da un certo punto di vista, la Germania dimostra ancora di essere un paese molto solidamente democratico, se riesce a contenere tutto questo a un candidato. Allora, questa è una prima fotografia. Dopo il traffico torneremo un po' sulle cose italiane, magari vediamo se c'è anche spazio per qualche notizia di cronaca, ma ancora la politica, le reazioni delle europee. State con noi, ricordiamo che oggi daremo in onda con 24 Mattino fino alle 9:45. Promo 24. Carserver è la prima azienda a capitale interamente italiano a offrire una nuova idea di mobilità per le aziende. Il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Carserver è infatti l'unica nel settore ad avere una rete di ben 20 filiali a gestione diretta in tutta Italia. Il suo personale qualificato è sempre pronto a soddisfare le esigenze di grandi aziende, piccole e medie imprese, professionisti e artigiani. Con una flotta di 25.000 veicoli e un parco vetture sostitutive di 2.000, Carserver offre la più ampia scelta di marche e modelli. Una rete capillare di assistenza convenzionata e la sicurezza di una manutenzione garantita dalle stesse case costruttrici. Carserver, soluzioni di noleggio a lungo termine. Trova la tua sede su www.carserver.it. 24 mattino. Eccoci qui ancora a leggere i giornali, con noi c'è anche Gigi Donelli a raccontare quello che succede dopo le elezioni europee. Io intanto voglio tornare sulle questioni italiane. Oggi interessante l'articolo, l'analisi che fa già Francesco Verderami a pagina 3 del Corriere della Sera, per capire ora cosa succede dopo questo quasi 41% al Partito Democratico, ma anche un nuovo centrodestra che è al 4,37% ovviamente in Europa, e soprattutto una scelta civica che, come definisce Verderami, è cannibalizzata. Sono le forze che sostengono il governo Renzi. Ora che succede? Un mondo nuovo, scrive Verderami. Una vera e propria cesura col passato, di qua un Renzi dominus di un risultato senza precedenti, di là un Grillo assai ridimensionato nelle mire, in mezzo c'è il tramonto di Berlusconi e del berlusconismo. A cosa è servito il voto per l'Europa? A decidere le sorti dell'Italia. È stato allo stesso tempo un sondaggio sull'esecutivo, un referendum sulle riforme, uno stress test sulla futura legge elettorale, una sfida tra le tre coalizioni, insomma tutto fuorché un voto per Bruxelles e Strasburgo. Verso cui aumenta l'ostilità del paese, visto che è aumentato l'astensionismo. Ma scrive Verderami, quello che si profila all'orizzonte per il governo è, di qui all'autunno, un rimpasto con cui adeguare l'esecutivo al nuovo quadro politico. Insomma, per Francesco Verderami non c'è la prospettiva di allargare i confini dell'area di governo a Berlusconi con le larghe intese. D'altronde, Renzi in testa si è sempre detto contrario all'ingresso di Forza Italia nell'area di governo. Vabbè, questo, siamo già alle analisi di quello che succederà nei prossimi giorni, ne saranno piene le pagine dei giornali. Gigi, per concludere per il momento la questione europea, abbiamo un profilo di quello che potrebbe essere la composizione prossima dell'Europarlamento, cioè quanti sono di centrodestra, quanti sono di centrosinistra? Sì, innanzitutto diciamo che il titolo potrebbe essere "Vince Jean-Claude Juncker, perde Schulz", quindi Martin Schulz, leader della sinistra, dei socialisti europei, e contava molto, nonché presidente uscente del Parlamento europeo, è lo sconfitto in un Parlamento europeo che allo stato attuale, sui 751 deputati previsti globali ovviamente, vede il Partito Popolare Europeo a 212, sinistra, dunque i socialisti europei, a 186, liberali a 70, verdi a 55. Allora, prima considerazione, diciamo, questa è vero che c'è un'ondata, una montante ondata euroscettica, che ci sono parecchi, tra l'altro, partiti che dovranno scegliere a quale gruppo partecipare, perché è tutt'altro che scontato per molti di loro. Vero anche che nell'insieme i partiti tradizionali, quindi nel Parlamento europeo, restano fermamente una maggioranza di blocco, come dire, il mix di tutti i risultati dei singoli paesi ovviamente nel Parlamento produce non produce la rivoluzione o il terremoto che abbiamo visto altrove. Allora, io in questi 2 o 3 minuti leggerei un paio di notizie. Oggi non possiamo anche dimenticare la carta costa, non è che ce lo siamo dimenticati, ma un paio di notizie altre che trovate sui giornali, perché c'è anche altro oltre a quello che abbiamo letto in apertura anche di rassegna stampa. La notizia di cronaca che più mi ha colpito è c'è una mezza pagina sui giornali, è quello che è successo ieri sul lungomare di Torvaianica a Roma, dove un uomo ha preso una mazza da baseball, ha iniziato a colpire, a infierire sui passanti a caso. Uno di questi è grave. Ricordate il precedente, no, di Adam Cabobo a Milano, che uccise 3 persone a colpi di piccone. Mazza da baseball sui passanti, uno è grave, così il Corriere della Sera, pagina 28. Il primo che l'ha incrociato, racconta Rinaldo Frignani, ha capito le sue intenzioni e ha schivato i colpi, ma il secondo, un pensionato di 66 anni, non ha fatto in tempo, e allora il blocca volante, impugnato come una spranga, si è abbattuto su di lui, devastandogli il volto. questa persona, romano di 24 anni, Danilo Bertrand Vilalta, rugbista in una squadra di Serie C, non si è fermato, anzi ha continuato a colpirlo usando anche una mazza da baseball, e poi si è accanito contro altre persone. Alla fine è stato fermato, è stato anche salvato da un possibile linciaggio, ma certo questo pensionato è in gravi condizioni. Mi ha colpito invece, parlando di cronaca più leggera, questo articolo di Repubblica: arriva la rivoluzione con gli SMS, in alcune città è già possibile, sarà presto possibile prendere il biglietto dell'autobus con un semplice messaggino dal telefono. La rivoluzione corre sul bus, basta un SMS per il biglietto. Alessandro Longo ne scrive a pagina 29 su Repubblica. Ma siccome siamo al premio conclusivo, la carta è costa, qua abbiamo Gigi Nonelli, che è un grande fan di Simpson, dei Simpson. È vero? Assolutamente che? Assolutamente sì. Una pagina del giornale, il giornale in testa alla classifica, mi sa che vincerà la classifica il premio, che daremo alla fine dell'anno, la coppa, la carta costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Francesco Paolo Giordano: le 12 volte in cui i Simpson hanno previsto e anticipato la realtà, eventi futuri. Per esempio, si parlò dello spionaggio nel 2007 con i telefonini, e poi è arrivato lo spionaggio dell'NSA. È arrivato una volta nel 95, in un episodio ambientato nel futuro, il ragazzo di Lisa parlava al telefono con un orologio, e poi hanno fatto il telefono orologio. Ma ti rendi conto, Gigi? Di qualcosa, dillo tu, che la carta costa. Tutto un altro sguardo. Dillo, visto, guarda qua, con Homer Simpson, una pagina del giornale. 12 previsioni di Simpson, ricorda vagamente altre citazioni bibliche. Vabbè. Mamma mia, le 12 piaghe dei Simpson sul giornale. Gigi Donelli rimane con noi, c'è il giornale radio, rientriamo dopo le 8:15 con gli ospiti, Mario Adinolfi, Giorgio Mulè, direttore di Panorama, e poi Daniele Martinelli, blogger del Movimento 5 Stelle, e le vostre telefonate, state con noi.